L'autore Andrea Catarci sul suo libro Generazione di rimessa, che sarà presentato a Roma allo Spin Time Labs martedì 9 luglio 2019 e a Trevignano, a Lago Gelato, sabato 13 luglio 2019. Andrea, ben trovato. Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti voi. Ci racconti di questo lavoro? È essenzialmente un memoriale, un ripercorrere in un racconto romanzo, racconto romanzato, delle vicende di un gruppo di amici che all'interno di quella tempesta di egoismo sociale che furono gli anni Ottanta trovarono motivazioni per costruire tanti pezzi di comunità intorno alla manifestazione di Montalto di Castro del 9 dicembre 86. In particolare si dipanano una serie di piccole storie che si vanno a intrecciare sia nella preparazione che nel durante che nel dopo, che sono il pretesto per ricostruire uno spaccato inedito degli stessi anni Ottanta. Quella data come momento simbolico nella tua biografia personale o anche come momento pubblico di rilievo? Sicuramente un momento simbolico anche sul piano personale, essendo una prima manifestazione importante a cui un 17enne voleva andare a tutti i costi, addirittura inventandosi a casa dei lavori da fare fuori, delle visite presso amici che non esistevano, ma soprattutto un momento pubblico importante, perché appunto lì quella che poi come definizione scelta nel libro viene definita la generazione di rimessa contribuì a vincere una delle più grandi battaglie civili di questo paese, perché di lì a un anno, a settembre del 1987, poi un referendum avrebbe sancito la vittoria delle battaglie antinucleari, quindi non solo una generazione di rimessa, sempre in grado di rispondere anche a quella tempesta appunto fortissima che furono gli anni Ottanta sul piano dello yuppismo e delle città da bere, dell'egoismo sociale, le etichette con cui è passata alla storia, ma anche su una questione così importante riuscì a vincere quella generazione, a contribuire a una grande vittoria civile. La spinta a questo libro da dove viene? Viene proprio da alcune relazioni molto strette, amicali. Si seguono in particolare nel libro le vicende di due amici, uno non c'è più, un'altra vive dall'altra parte del pianeta, penso, non ho più notizie, e da una serie ulteriore di piccoli stimoli che negli anni appunto mi hanno fatto riflettere molto sugli anni di quelle che per me era l'adolescenza, la post-adolescenza, che sono anche anni particolarmente importanti per la formazione individuale. Poi da lì il libro è un tentativo di scavare avanti e indietro, insomma c'è molto sull'infanzia, c'è un tentativo di andare pure a capire alcune questioni, quanto i primi lavori segnano le personalità, quanto è importante comunque stare dentro a gruppi di amici, per me attorno a un pallone, intorno al mondo del calcio giocato e anche del calcio tifato, per altri in altre forme, però queste forme sono forse anticorpi che per tutte le generazioni sono determinanti per essere comunque protagonisti, per giocare comunque un ruolo al di là delle difficoltà dei contesti generali. Come sei arrivato a questa sintesi di definizione generazione di rimessa? Mi è venuta un po' per paragone, no? Mi è venuto da pensare che gli anni 60 alla fine sono gli anni di varie aspirazioni ancora a socialismo, a libertà sessuali, a libertà personali. Gli anni 70 sono quelli in cui deflagra lo scontro sociale, una generazione mai doma, la più incarcerata della storia d'Italia, tra l'altro, porta la conflittualità ai più alti livelli del continente. E gli anni 80 mi sono chiesto che cosa siamo stati noi in quegli anni in cui ci siamo affacciati alla politica. Siamo quelli che hanno risposto, in grado ogni volta di rispondere, di immaginare una reazione, mai in grado di progettare un assalto al cielo come nei 70, ma neanche supini a subire tutto quello che succedeva. E quindi di rimessa, giocare di rimessa come nel calcio, insomma, no? Cercare assorbire i colpi di un avversario indubbiamente più forte, come era la corrente dominante di quel periodo, ma non arrendersi mai, cercare di riorganizzarsi e provare a ripartire. Le esperienze dei centri sociali romani e tante altre piccole storie importanti che hanno tessuto di nuovo le relazioni tra la grande sconfitta dei 70, perché l'epilogo di quegli anni fu anche una grande sconfitta dopo la grandissima battaglia che c'era stata, e quello che venne dopo, dalla Pantera in poi, comunque una generazione che riprende la parola, è una nuova generazione di militanti che in tante forme diverse, individuali, collettive, ricostruisce una dinamica di impegno, in particolare in città come Roma questo è molto evidente. Ricostruendo un percorso personale e anche collettivo, che bilancio ne fai? I bilanci sono sempre una cosa complicata. Io penso che quel periodo là sia stato determinante appunto per la formazione poi di quello che è stato l'impegno successivo. Dal punto di vista personale non posso che averlo dentro come un elemento di grande arricchimento. Il momento del passaggio dall'io a un nuovo noi, perché no, gli anni 80 si sono gli anni in cui si passa dal noi all'io, no, all'individualismo, e invece noi abbiamo ricostruito lì un noi all'interno di dinamiche minoritarie ma comunque in grado di incidere, e penso che siano anni su cui valga la pena riaprire uno squarcio di luce, una nuova linea di ricerca, non per confutare contro qualcosa, non per paragonarli con i 70 o neanche con i 90 che vengono dopo, ma per andare a capire davvero quello che è successo, e che poi ci sono fenomeni particolari tipo il fenomeno punk, che per esempio invece proprio torna alla metà degli 80, vive in Italia una particolare fioritura, una vera e propria affermazione, con tutte le contraddizioni e le diversità che vanno dal nichilismo assoluto alle forme più politiche e più presenti all'interno poi dell'universo civile. Quindi sono anni ricchi, e penso che dal punto di vista collettivo e delle organizzazioni politiche di oggi, anche le generazioni di oggi hanno qualcosa da prendere là, perché indubbiamente anche le generazioni di oggi sono chiamate a una grande operazione di resistenza e di rilancio, e forse nella storia recente quegli anni lì sono gli anni in cui di più i giovani si sono dovuti allenare a resistere e a rilanciare. E quindi, siccome penso che bisogna essere un po' più indulgenti di come di solito si fa con le generazioni attuali, forse anche rimettere un po' a fuoco il crinale storico in cui questo paese si è mosso negli ultimi decenni può essere un contributo che da persone un pochino più anziane, tra virgolette, diamo alle nuove generazioni. Soprattutto nel momento tra la fine dei 70 e poi per tutti gli 80 è stata anche una generazione falcidiata dall'eroina. Sì, c'è molto di questo dramma all'interno delle pagine, in particolare mi ricordo un paio di squadre di calcio giovanili di cui sono stato parte, che avevano un'impossibilità. La domenica quando andavamo in trasferta non arrivavamo mai a 11. Dicevamo che le persone, i nostri amici lavoravano, che avevano da fare, in realtà il problema era che l'eroina si era insinuata anche dentro i meandri delle nostre amicizie strette, dove non pensavamo mai che sarebbe arrivata. Sono stati anni in cui c'è stato un rapporto duplice con l'eroina, perché non eravamo la generazione degli 80 che ne ha subito l'impatto nell'assoluta misconoscenza anche di quello che poteva essere il futuro. Noi l'abbiamo conosciuta dentro una dinamica anche di conoscenza particolarmente ormai concreta, perché appunto avevamo davanti gli esiti che c'erano stati negli anni precedenti. Questo non ha impedito di viverla come una grande tragedia anche durante gli anni 80, anche lì a me è sembrato opportuno mettere in evidenza all'interno di questo racconto le resistenze, perché combattere contro le micro e macro organizzazioni che dentro quartieri e anche i paesi di provincia di Roma venivano a portare l'eroina e ci falcidiavano gli amici, c'è stata anche lì una piccola grande resistenza secondo me, quartiere per quartiere, luogo per luogo. Io racconto la mia, quella che ho visto e di cui posso essere testimone diretto. Il movimento della Pantera è stato forse il momento più grande, più visibile e poderoso di questa generazione. Sì, la Pantera è un po' la presa di parola, no? Dopo gli anni in cui appunto era difficile parlare, si costruivano relazioni e si costruivano scontri locali, piccoli e grandi, con gli spacciatori come con i neofascismi risorgenti, come con le piccole mafie, penso all'università, penso a quello che era stato costruito intorno al Crinale di Comunione e Liberazione in quegli anni. Oltre questo però la Pantera ha rappresentato una nuova dimensione di massa, nel senso che per una volta quelle minoranze, quelle che per i 10 anni prima erano state minoranze che costruivano piccoli spezzoni di esperienza e di resistenza nei quartieri, nelle scuole, nelle università e in luoghi di lavoro, sono diventate improvvisamente assemblee imponenti, sono diventate improvvisamente elemento di critica globale dell'università servita alla logica di impresa, alla logica delle decisioni dentro i consigli di amministrazione da parte delle aziende, in particolare quelle che lavoravano sul crinale delle armi, ma non solo quelle, e è stato anche un po' la prova del fuoco per quella generazione, perché appunto da lì in poi nulla è stato più uguale, nel senso che malgrado la Pantera, oltre una presa di parola generale, una critica materiale abbozzata, non è riuscita ad andare, ma da lì in poi chiunque è stato parte di quel movimento non ha potuto più ragionare come prima con i crinali della costruzione della piccola esperienza soggettiva, ha sempre dovuto confrontarsi con una dimensione più ampia di confronto che a mio avviso è stato comunque portatore di elementi di innovazione all'interno della cultura politica. Parlo di Roma, che è la situazione che conosco meglio ovviamente. Dopo quell'esperienza c'è stato tutto il percorso fondamentale, soprattutto nelle città, degli spazi sociali, dei centri sociali occupati autogestiti, nati alla metà degli anni 80, ma che nei 90 si sono consolidati e allargati. È già una grande esperienza di partecipazione che anche lì, no? Perché anche nei primi degli 80 esistevano collettivi territoriali, organizzazioni, la rete dell'autonomia operaia con tutte le sue frantumazioni, ma ancora in campo, no? Da alcuni luoghi di lavoro simbolo come il Policlinico ai quartieri più importanti di questa città. Però nel 86 è una delle date simbolo, non solo perché c'è Montalto di Castro per quanto riguarda il racconto specifico del libro, ma nel 86 in cui prendono vita le prime importanti esperienze di centro sociale romano per come poi l'abbiamo conosciute storicamente, quindi dal Sisto Quinto al Forte Prenestino, ci respirava un'aria particolare a Roma. È sempre la visione ovviamente di un 17enne, quindi sto parlando di un'immersione nel passato, no? Che non ha volutamente tenuto conto poi del fatto di conoscere anche tutti i percorsi successivi, ma in quell'anno lì davvero si pensava che si potesse cambiare qualcosa, pensavamo che la seconda metà degli 80 sarebbero stati sicuramente elemento dirompente dentro la storia cittadina e del paese, in parte secondo me lo furono davvero, perché appunto furono gli elementi di protagonismo di generazioni che ancora oggi hanno fatto in modo che i nostri quartieri avessero un volto più umano di come non avrebbero avuto, no? Perché le esperienze, non solo quelle storiche, iniziali, il Sisto, il Forte Prenestino e poi il Faro e tutti gli altri, ma tutte le altre esperienze di protagonismo giovanile diffuso hanno sicuramente portato un grande livello di protagonismo e sono stati antidoto alla degenerazione in tutti i pezzi di questa città, perché poi Roma, insomma, è l'unica città d'Italia che ha dinamiche davvero metropolitane e questo protagonismo l'ha resa socialmente e politicamente più viva e ha fatto sentire tutti un po' meno soli. Un'altra delle spine dorsali dell'antagonismo sociale a tutt'oggi è quella dei movimenti di lotta per la casa, cominciati chiaramente nei decenni precedenti, ma continuano ad essere appunto una spina dorsale di soprattutto spazi metropolitani e Roma in particolare. Sicuramente, questa città ha una ricchezza anche dal punto di vista della storia recente che abbiamo il compito di mettere a fuoco, di pensare, è il nostro piccolo bagaglio anche appunto da riuscire a portare avanti e Roma c'ha un destino strano, no? Persino durante la Resistenza era la città che veniva snobbata, no? Siccome non c'erano le montagne, a Roma non si fece la Resistenza, e Roma invece fu una delle città che pagò il più alto tributo di sangue allo scontro col nazifascismo. Così per quanto riguarda gli anni 70, gli anni 80, sicuramente dal punto di vista dell'elaborazione teorica forse è mancato il nome famoso, diciamo, no? Comunque l'infiocchettamento, ma insomma tutte le pratiche resistenti, da quelle sul terreno della casa a quelle sul terreno del reddito, no? Immaginiamo i mercatini popolari, tutto ciò che girava intorno alle iniziative di tante organizzazioni della sinistra di allora, e sul terreno dell'autoriduzione delle bollette, insomma c'era una radicalità di massa diffusa che ovviamente non poteva starci da nessun'altra parte, perché insomma, appunto, dicevo, Roma è l'unica metropoli d'Italia, se non altro perché per dimensioni, per caratteristiche, né Milano né Napoli possono avere la definizione di metropoli, non lo sono oggettivamente, insomma, al di là di quello che si vuole poi pensare. In chiusura, Andrea, ci sono dei riferimenti web per saperne di più sul tuo libro? Di sicuro per ora il punto di riferimento principale è Deriva Prodi, che è il sito della casa editrice, che ha come elemento principale appunto la ricostruzione poi dei movimenti, che io ringrazio in particolare perché ha ospitato il mio libro, un libro di narrativa, anche a dispetto della sua scelta principale di fare saggi, di pubblicare quindi elementi di natura diversa. Ovviamente proveremo nei prossimi giorni, dopo la presentazione, dopo le prime presentazioni, appunto il 6, giovedì prossimo, domani ai Granai, a Roma 70, e poi il 14, venerdì, alla Festa per la Cultura di Garbatella, a tracciare un primo elemento di comunicazione più generale. Non so se faremo una pagina dedicata o qualcosa, per ora i punti di riferimento sono quelli miei personali sui social e quelli della casa editrice. L'autore Andrea Catarci sul suo libro Generazione di rimessa, che sarà presentato a Roma allo Spin Time Labs martedì 9 luglio 2019 e a Trevignano al Lago Gelato sabato 13 luglio 2019. L'autore Rolando Galluzzi sul suo libro Roma brucia, 19 luglio 1943, ore 11.03, quartiere San Lorenzo, che sarà presentato a Roma alla Biblioteca Comunale Tullio De Mauro martedì 9 luglio 2019. Rolando, ben trovato. Buongiorno, ciao. Allora, raccontiamo intanto il libro. Cos'è questo oggetto libro? Allora, il libro 19 luglio intende ricordare la giornata del primo bombardamento su Roma, il 19 luglio del 1943, un evento tragico per la città, dove praticamente fu raso al suolo il quartiere San Lorenzo, quasi 2000 morti, decine migliaia di feriti, e insomma il libro è la storia di questo evento, la città Roma sotto le bombe durante la guerra. E poi ci sono più di metà del libro di testimonianze di persone che hanno vissuto quella tragica giornata. Raccolte direttamente da te? Raccolte da me, scritte da loro, e tra l'altro c'è una testimonianza di Rosario Bencivegna, che tu conosci, insomma, certo. Tiziano, e che probabilmente in questo suo racconto si ritrovano le motivazioni anche della sua scelta partigiana e antifascista. Sì. Un racconto estremamente commovente. Sì, sì. Rolando, mi dicevi anche della particolarità che ti ha spinto a scrivere questo libro. Sì, sostanzialmente due o tre mesi fa, vedendo le immagini da Aleppo in Siria, quei bombardamenti, ma soprattutto le facce delle povere persone che stavano sotto, la polvere, il sangue, i morti, i bambini in terra esemini, mi sono venute alla mente queste stesse cose che mi raccontavano i sanlorenzini di quel giorno. Non ho visto nessuna differenza, lo stesso dramma e la stessa sofferenza per quelli che stanno sotto, per la popolazione civile. E allora mi sono impegnato a fare questo libro testimonianza. Mm-hmm. Senti, come ti sei mosso? Quanto è durato tutto il lavoro? Insomma, è durato, diciamo che io sono anni che mi occupo di raccogliere le testimonianze di quell'evento, ma insomma ci ho messo almeno 6 mesi, soprattutto per la ricerca storica. Sì. Nella prima parte del libro, nel Roma durante la guerra, parlo degli orti di guerra, parlo della fame di quel periodo, parlo delle tessere annonarie, delle lotte per il pane, insomma una ricerca abbastanza approfondita sul tema. Sì, sì. Senti, quindi uno degli oggetti della tua ricerca è anche il quartiere San Lorenzo, a cui sei molto legato. Sì, è una ricerca sul quartiere. Tra l'altro in questo libro per la prima volta do il primo documento scritto in cui c'è testimonianza di San Lorenzo. 1 luglio 1887, la delibera del Comune di Roma che istituisce alcune vie. E quindi, insomma, nessuno l'aveva finora tirata fuori. Dopo una ricerca presso il Comune, finalmente abbiamo le prove della prima volta che si è appellato San Lorenzo. Mm-hmm. Tra l'altro il quartiere aveva una solida tradizione operaia di lavoratori e antifascisti, perché per esempio c'era il partigiano di bandiera rossa Orfeo Mucci che ci raccontava che alla marcia su Roma i fascisti non potettero entrare, furono cacciati via da San Lorenzo. Assolutamente sì, tra l'altro sempre in questo nel libro c'è la foto dell'ottobre del 22, Porta di Bortina, con i soldati e i cavalli di Frisia. E dopodiché ricevettero l'ordine di smobilitare, anche questo è un episodio, insomma, smobilitare per far passare i fascisti, ma San Lorenzo non gli riuscì neanche questa volta. Sì. E tra l'altro è un quartiere operaio e è il primo quartiere operaio della Roma post-unitaria. Sì. Viene prima di Garbatella, prima di Testaccio, perché Testaccio e Garbatella sono è nel progetto del comune di essere quartieri dove alloggiano operai, eccetera. San Lorenzo, diciamo che nasce spontaneamente come quartiere operaio ed è il primo in assoluto, con le sue fabbriche, le sue dimore, eccetera. Rolando, come reagì il quartiere? Cosa successe dopo il bombardamento? Dopo il bombardamento successe che sostanzialmente 20.000 abitanti, 2.000 morti, 5-6.000 feriti, quasi il 40% dei palazzi venuti giù, quindi macerie, esodo, dalle testimonianze appunto chi andava verso Roma Nord, chi se ne andava verso soprattutto i paesini in provincia a piedi con mezzi di fortuna, e alcuni all'acquedotto Alessandrino, altri insomma per timore veramente di fortuna. E una testimonianza ci racconta una cosa molto emblematica, che coloro, i sopravvissuti, avevano sul bavero della giacca delle stellette di latta, di ferro, per quanti morti c'erano stati in famiglia. Quindi un'assonanza come con gli ebrei. Mm-hmm. Quante testimonianze hai raccolto per il tuo libro, Rolando? Ma guarda, nel libro ce ne sono una decina. Sì. Però insomma io sto raccogliendo, le tengo appunto nel mio archivio, e spero che un giorno qualcuno, il municipio, il comune o chi che sia, si decida a mettere su un archivio della memoria di quell'evento. Sì, perché sì. Roma insomma fu bombardata, nessuno se lo aspettava, data l'insidienza di Mussolini e del governo, insomma avevano sottovalutato, erano convinti che ciò non succedesse, e invece la città subì questo primo bombardamento e poi ne subì altri 40 prima del giugno 44. Sì, sì, sì. Rolando, stai facendo una campagna di presentazione di questo libro, c'è questo appuntamento del 17 luglio a cui ne seguiranno altri, immagino. La prima la facciamo presso la Biblioteca Comunale Tullio De Mauro a Villa Mercedes, nel quartiere San Lorenzo, poi il 20 al Centro Anziani, e poi nel mese di settembre ne faremo altre. Ecco, per seguire tutte queste tappe diamo come riferimento la pagina Facebook proprio del libro. Sì, assolutamente sì, dove pubblico

Per essere tutelati e tutelate in qualche modo esistono associazioni di questo tipo? Allora, guarda, molto, vabbè, noi come Decrescita Felice, Movimento per la Decrescita Felice, cerchiamo un po' di fare informazioni su queste tematiche. E sicuramente siti da consultare, c'è Salvagente che fa un ottimi, no, non è un'associazione, però insomma fa ottime indagini sul tema delle etichette, anche Green Style, le associazioni dei consumatori, però devo dire che quelle dei consumatori in realtà fanno più comparazioni di prodotti commerciali, ma non consigliano mai le alternative naturali. In realtà non dovremmo neanche dire alternative naturali, perché l'alternativa dovrebbe essere il prodotto commerciale pieno di sostanze di sintesi. In realtà la via naturale dovrebbe essere quella maestra in qualche modo. Quindi sì, mi vengono in mente queste più che altro. In chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più sul libro? Sì, grazie. Allora, vabbè, sul mio blog autoproduciamo.it c'è tutta la scheda del libro, se no Gruppo Macro, che è la casa editrice, meravigliosa, che ci fa sempre pubblicare su tematiche che abbiamo a cuore, e lì si trova anche l'etichetta, insomma si prende in libreria o si può ordinare online da Macro Libarsi e niente, quindi grazie. E chi volesse venire ci vediamo mercoledì alla Bicora alle 7. Mercoledì 10 luglio 2019, occhio all'etichetta, tutto ciò che devi sapere prima di fare la spesa. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice Lucia Cuffaro. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie Federico, a presto. Con Militantà per parlare dell'appuntamento Slam Poetry a Roma, alla festa dell'altra estate, a Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, venerdì 12 luglio 2019. Ben trovato. Ciao carissimo e ciao a tutti gli ascoltatori cari, amate ascoltatori e ascoltatrici. Cos'è questa formula? Sai, io da sempre ho fatto, ho mischiato un po' il rap con lo slam, cioè col fatto di fare delle canzoni senza base, con le rime, perché per me, cioè chi segue abbastanza cioè, dall'inizio, insomma, che dà sempre importanza tantissimo al testo, quindi mi è sempre piaciuto poi fare i pezzi senza musica. E quindi questo fa parte, diciamo, di un giro che ho fatto in realtà di presentazione del libro, del mio ultimo libro, Conquistato Quartiere, Conquistare il Mondo, La mia vita con il rap, tra l'altro che è arrivata la terza ristampa proprio in questi giorni, e quindi unisco, diciamo, il racconto del libro, che poi parla dei laboratori rap che faccio nelle scuole, con alcune canzoni della storia di Assalti, però rifatte appunto con slam poetry, con un racconto con delle rime senza la musica, e poi facciamo anche comunque una parte, diciamo, musicale più live. Volevo chiederti se ami la poesia e quali sono i tuoi riferimenti. Quando ho cominciato a fare rap, che poi io ho cominciato a fare rap proprio perché non mi piaceva come parlavo, no? Allora volevo organizzare il discorso in modo più preciso e più corretto, coerente, bello, che insomma desse proprio a soddisfazione quando uno se lo sentiva. E quindi ho cominciato ad organizzarlo così, perché non mi soddisfaceva tanto il linguaggio che c'era nel movimento, però erano sempre importanti le cose che bisognava dire, bisognava comunicare, quindi cercavo queste nuove forme di comunicazione. Chiaramente proprio inizialmente chi mi colpivano erano, vabbè, grandi scrittori, cioè, che ne so, poesie, le poesie di Sant'Enna Nicola, comunque poesie e scritti che fossero in qualche modo utili, sì, oltre che belli, utili a raccontare la realtà in cui viviamo. Che ne so, ad esempio l'ultimo pezzo, l'ultima canzone che ho fatto è quella su Simonetta, Salacone, la storia di Simonetta, e un po' mi ha dato anche l'idea che probabilmente userò questo, un po' questa chiave per raccontare attraverso la storia di alcune donne quella che è l'Italia di oggi, che sarà poi il tema del prossimo disco. Ad esempio la storia di Susanna, che è quella rom che aveva preso la casa a Torrenova, che ha preso una casa popolare a Torrenova, che i fascisti hanno cercato di togliergliela, come è successo pure a Casal Bruciato. Ho anche la storia di Maria Grazia, che ho conosciuto in un'iniziativa che abbiamo fatto a Piazza di Mirza, a Centocelle, con la mamma che ha avuto purtroppo una tragedia, cioè che il figlio è stato investito da pirata criminale che andava contro mano, ubriaco e non si è fermato, e che però era cose che accadono troppo spesso nell'indifferenza generale, però quello che ha investito era un albanese, quindi subito i fascisti si sono messi lì che volevano fare la fiaccolata contro, e lei ha trasformato, diciamo, questo suo dolore in una lotta poi contro l'ingiustizia, perché lei è sempre stata una compagna. Quindi volevo raccontare queste con i nomi delle donne poi la realtà che viviamo oggi. Mm-hmm. E mi sembrava una cosa così, una chiave per conoscere meglio le cose. Sì. In questo periodo lo slam poetry, il tuo libro e i concerti, in che rapporto li hai messi? Ma lo slam poetry ho visto che sta andando tanto, infatti conosco anche, ad esempio, ma c'è Matteo di Genova, non so se lo conosci, quel ragazzo dell'Aquila, che anche lui era un rapper, adesso sta facendo slam poetry, ne parlano tanto, ci gira. È una bella formula, insomma, mi piace questa cosa di... E dato che io chiaramente ho fatto sempre più con la musica, però mi è sempre piaciuta questa cosa dello slam poetry, quindi ho detto, oh, guarda, comunque pure io faccio slam poetry. E ogni tanto, insomma, mi propongo come questa formula. Per quanto riguarda il libro è poi il racconto di tutti i laboratori rap che faccio, che sono poi fondamentalmente dei laboratori più che del rap, veramente di slam poetry, in cui vado nelle scuole, nei ragazzi, e dico, oh, voi che volete dire? E così loro piano piano mi dicono le cose, perché poi ormai i ragazzi vogliono fare tutti il rap, no? Ormai ci sta un milione di rapper, un milione di potenziali slam poetry che vogliono prendere la parola con il rap. Poi sono tutti innamorati di questo strumento, quindi è bello, e da una parte loro non sanno però la storia che c'è dietro il rap, non sanno anche le possibilità che ha il rap, e stanno un po' fermi sui cliché, però io gli dico, dai, forza, raccontatemi questa cosa, ditemi che cosa volete dire, piano piano escono fuori delle cose bellissime. Anche questo, appunto, è un ritratto dell'Italia di oggi. Tra l'altro, ultimamente lo sto facendo in una scuola d'arte che si chiama Matemudo, che incontro tantissimi ragazzi, di cui parlerò anche a Casetta Rossa venerdì, e le racconterò appunto che tipo di rime, di liriche che fanno. Ho fatto un laboratorio bellissimo nel campo Rom di via Salviati, quello sulla Collatina, che è considerato appunto un covo di delinquenti, dove invece ho trovato dei ragazzi bellissimi che hanno tirato fuori delle rime fenomenali, geniali proprio, veramente, solo i bambini Rom possono tirare fuori. E poi tutte le rime che fanno i ragazzi, che fanno, insomma, e quindi racconterò un po' tutte queste cose durante questa cosa a Casetta Rossa. È una formula in cui sono presenti anche ospiti? Chiaramente c'è ospite il mio socio Paul G, che mi dà una mano nelle canzoni, e poi per il momento no, se ci sta qualcuno di questi ragazzi che ho incontrato appunto nei laboratori, verrà forse qualcuno di questi ragazzi, però mi devono dire, perché non so se passano o meno, quindi sono ancora tutti in fondo. Sì. Però insomma sarà una situazione secondo me molto bella, intima, diciamo, di conversazione con colloquiale, ecco, sì, in cui anche possiamo parlare e raccontarci che cose. Poi tra l'altro racconterò, non so se qualcuno l'ha partecipato, però insomma racconto anche come nascono le canzoni, come certe idee escono fuori attraverso questa evoluzione che ci ho avuto in 30 anni di rap, che mo sono diventati 30 anni, da quando facevamo Batti il suo tempo, poi agli anni 90, tutto il periodo in cui eravamo quelli dei margini, orgogliosi di stare margini, e poi piano piano insomma siamo un po' più aperti, andando a cercare anche un linguaggio nelle rime un po' più comprensibile per tutti quanti. Sì. In chiusura ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni? C'è un evento Facebook che si chiama Slam Poetry di Militantà, venerdì 12 luglio dalle ore 21.30 alle 23.30 a Casetta Rossa, via Magnaghi 14 a Garbatella, e una serata speciale sul palco dell'altra estate, Militantà, accompagnato da Poi G, racconta 30 anni di rap, da Batti il suo tempo a Simonetta, come nascono le canzoni, con una rima, una quartina, un rap può cambiare la percezione di se stessi e dell'ambiente in cui si vive, trasformando persone che tutti scansavano in stelle, luoghi considerati di degrado in oasi di bellezza. Dalla Golden Age dell'hip hop all'ultimo libro con cui faccio costruire e conquistare il mondo, La mia vita con il rap. Vabbè, insomma, per chi viene, ci vediamo lì, sarà una bellissima serata. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie caro, ti abbraccio anche io. Ciao. Ciao. con Giulia Blasi, autrice del libro Manuale per ragazze rivoluzionarie, perché il femminismo ci rende felici, a Casarsa della Delizia, mercoledì 10 luglio 2019. Giulia, ben trovata. Buongiorno, buonasera, buonanotte, in qualunque momento siete ascoltando questa intervista. Giulia, ci racconti brevemente di questo libro per sommi capi? È stata un'idea molto vecchia in realtà, risale a circa 3 anni fa ormai. Volevo scrivere un saggio sull'orrore del femminile nella cultura contemporanea, specificamente nella nostra. La tesi alla base del libro è che le femmine fanno un po' schifo a tutti, fanno schifo ai maschi, fanno schifo anche un po' alle altre femmine, nessuno vuole essere una donna, potendo ci rifugiamo tutti quanti nel maschile, quindi volevo scrivere una cosa un po' estesa su questo problema appunto della femminilità e del femminile percepito come inferiore rispetto al maschile, non semplicemente una somma di qualità diverse, ma qualcosa che è un po' meno e quindi va messo a margini rispetto al maschile, che comunque è più forte, più autorevole, migliore, proprio in sintesi. Poi nel frattempo sono scoppiate le campagne antimolestie, di cui appunto quella italiana è stata ideata da me, dal gruppo femminista di discussione a cui facevo capo e che avevo fondato, quindi diciamo che da quel punto lì io sono diventata un altro tipo di voce, quindi da voce che grida nel deserto dell'internet sono diventata una che veniva intervistata dai giornali, dalla televisione, quindi avevo un minimo di credibilità per poter parlare del tema. Mi chiedono: fai un libro sulle campagne? Dico: no, aspettate un po', un'idea migliore, e ho colto al balzo una vibrazione che mi stava arrivando da più parti, cioè la sensazione che le ragazze e le donne intorno a me avessero bisogno di struttura, non struttura accademica, perché il femminismo può essere anche molto complesso, molto accademico e parlarsi all'interno di circoli, ma struttura di tutti i giorni, cioè perché siamo in questa situazione e cosa ci possiamo fare. Quindi convivere con l'oppressione, ma non semplicemente sopportando, ma provando a arrabbiarsi meglio. E quindi ho fatto un libro proprio per dire: la situazione è questa, proviamo a reagire in modo costruttivo. Da questo è nato il manuale. Secondo il tuo modo di vedere, come si è sviluppato il femminismo dalla nascita ad oggi? È una domanda molto complessa, però per sintetizzarla moltissimo, si nasce chiedendo i diritti di base, perché quando nasce il femminismo, stiamo parlando della fine del Settecento, le donne non erano niente, non potevano votare, non potevano possedere nulla, non erano cittadine, erano dei graziosi animaletti da compagnia e da riproduzione, basta, nient'altro. Poi magari dentro le mura domestiche avevano la possibilità di studiare, se erano ricche, a volte potevano anche influire sui destini dei loro compagni o delle persone intorno a loro. Però non erano delle cittadine, non potevano esistere al di fuori della dimensione domestica. Quindi i primissimi moti femministi nascono proprio per chiedere una rivendicazione dei diritti di base come esseri umani, essere, esistere nel mondo. Per il voto stiamo parlando degli anni 20 del Novecento, quindi passano dei secoli dal punto in cui si comincia a chiederlo al punto in cui effettivamente lo si ottiene. Le italiane sono fra le ultime in Europa. Abbiamo avuto il voto nel 1946. Quindi ogni ondata di femminismo chiede cose diverse, perché alcune cose sono state ottenute, altre cose sono ancora da ottenere. E poi quando si ottengono i diritti di base bisogna difenderli. E quelli che difendi poi comunque in qualche modo devi mandare avanti il discorso, perché anche se hai ottenuto l'aborto, il divorzio, queste cose qua che sono di base, devi comunque poter andare avanti, cioè cominciare anche a prospettare, come si sta facendo in questo momento, come sta facendo ora il femminismo contemporaneo, una società che vada al di là del binarismo di genere, quindi maschio-femmina, e anche del binarismo di identità sessuale, che insomma di orientamento, insomma tutte cose complesse che si fanno poco alla volta osservando i cambiamenti. Ecco, secondo te oggi quali sono le battaglie centrali e cruciali per il femminismo? Ci sono le battaglie di retroguardia, purtroppo, che hanno a che vedere con la difesa dei nostri diritti, perché la risorgenza delle destre minaccia direttamente i corpi delle donne, quindi cercano di portarci via tutti i diritti di base. L'aborto, il divorzio in Italia, stanno minacciando la possibilità. Cosa fanno? Gli italiani cosa fanno? Sono sempre furbissimi, non è che vanno direttamente all'attacco della legge che regolamenta il diritto di famiglia o che regola l'aborto, no, fanno delle leggi intorno che le depotenziano, per cui il DDL Pillon cerca di mettere le donne non abbienti nelle condizioni di non divorziare, perché dovrebbero pagare l'affitto al coniuge, perché dovrebbero essere in grado di avere una casa identica, comunque pari grado a quella del coniuge per poter ospitare i figli. Insomma, intacca quelle che sono le basi delle disposizioni sul divorzio, che sono state pensate per tutelare i coniugi con minore disponibilità economica. Aggiungiamo un dato a questa cosa: il 42% delle donne italiane, il 41% era leggermente calato, non lavora, quindi non è in grado di provvedere a se stessa, non perché non ci abbiamo voglia, ma perché un po' perché veniamo condizionate a pensare che stare a casa con i figli sia una cosa meravigliosa e una grande realizzazione, e un po' perché finiamo fuori dal mondo del lavoro. Abbiamo il primo figlio e puff, ciao, non ci prende più nessuno, oppure le famose dimissioni in bianco che sono state prese, riprese e rimesse 100 volte. Insomma, ci sono mille modi di far finire le donne fuori dal mondo del lavoro. Quindi siamo noi le persone più deboli. L'idea del pillone è stato scritto pensando ai movimenti di padri separati che protestano perché, essendo stati allontanati dalla famiglia e dai figli, sono costretti a pagare alimenti senza avere poi accesso alla famiglia. Spesso stiamo parlando di uomini violenti che sono stati allontanati dalla famiglia con un ottimo motivo. Il padre separato che soffre è una percentuale irrisoria rispetto alla madre separata che comunque si trova in condizioni economiche peggiori dell'ex marito. Quindi è stata fatta proprio il disegno di legge è stato pensato per favorire gli uomini e, in ultima analisi, per impedire alle donne di allontanarsi da un matrimonio finito o, peggio ancora, da un matrimonio violento. Quindi la furbizia della destra italiana è sempre a girare la legge. Non vado a toccare direttamente la legge sul divorzio, che è complicato e ci sarebbe opposizione. No, faccio il giro intorno e la depotenzio. Sull'aborto so che è stato fatto, e non so quanto sia andato avanti, è stato fatto un progetto di legge che renderebbe adottabile il concepito. Per cui io sono incinta, non voglio essere incinta, il mio concepito viene reso adottabile. Cosa significa? Che il feto è una persona, io non posso abortire perché quella cosa che ho in pancia non appartiene a me, non fa parte del mio corpo, ma è un cittadino che io non posso terminare, in un certo senso. Quindi non vai a toccare la 194 perché è complicato, fai una legge che la svuota. Questa è un po' la furbizia, e questa cosa sta succedendo dappertutto. Ovunque crescano le destre, le donne sono sotto attacco. Le donne, le minoranze di qualsiasi tipo, le minoranze di orientamento, le minoranze di identità di genere, tutte. Quindi c'è una battaglia di retroguardia da fare a livello internazionale, non soltanto in Italia, per difendere e potenziare i diritti acquisiti. E dall'altra parte si sta anche facendo una battaglia culturale per smontare il sistema culturale patriarcale. In ultima analisi si va verso una ridiscussione anche del sistema economico, di come siamo al mondo, insomma cose molto complesse su cui io magari non sono proprio la persona più esperta, però osservo ovviamente con attenzione l'evoluzione, perché sono cose che ci riguarderanno nei prossimi decenni. Giulia, come hai deciso di strutturare il libro? Grosso modo in due parti. La prima parte è più, per così dire, teorica, c'è una specie di panoramica molto personale. Ho scelto di raccontare questo libro in maniera il più possibile ironica e vicina alla vita, e per farlo ho preso la mia vita personale, la mia famiglia, i miei amici, le cose che mi sono successe. È una cosa che le femministe americane fanno da sempre, quello di usare il proprio io nel raccontare il politico. È proprio il personale che diventa politico. Sì. E ho cercato il più possibile di far ridere, ma in mezzo alle risate e a mezzo anche a un sacco di sana e giustificatissima rabbia, comunque c'è sempre il nucleo del problema, cioè non pensiamoci uguali perché uguali non siamo, e quella rabbia sorda che senti nella vita non è legata tanto alla tua mancanza quanto al fatto che il sistema è truccato. Quindi prima parte tutta teorica, più o meno facciamo il punto della situazione. Seconda parte un po' più pratica, perché essendo io una persona che molto, molto di lotta, nel senso sono una che discute, che cerca di essere presente, che cerca di fare un po' anche punto culturale giorno dopo giorno, ho detto allora vi regalo un po' delle mie tecniche, che sono magari un po' meno tradizionali, ma un po' più testate, quindi le metto sulla pagina. La premessa di tutto il libro è: questo è un libro che deve essere discusso, è un libro che non segna un punto finale, ma segna un punto di partenza. Chiunque abbia in mano questo libro, da qua in poi la lotta la deve fare con i suoi modi e i suoi metodi. Non c'è niente di prescrittivo, non c'è niente di dogmatico. Se c'è una cosa brutta e che ammazza le lotte femministe è il dogma, cioè la madre che ti dice le cose si fanno come dico io. Invece no, la madre dovrebbe liberare, perché io ho fatto così fino qua, da qua in poi la lotta la devi fare tu e ci saranno altre priorità e dovranno essere le tue priorità. Mm-hmm. Quindi questa è un po' la cosa che volevo fare, che insomma, avendo ormai più di 40 anni, era venuto il momento un po' di passare il testimone, per non trovarmi come mi sono trovata io a 20 anni da sola, senza che nessuno che mi guidasse in questa lotta che avrei dovuto fare 20 anni prima. Cominciato con un po' di ritardo, pazienza, però insomma, eccoci qua. Giulia, in chiusura, girando un po' l'Italia per incontri non solo legati al libro, che sentore hai? Che c'è tanta necessità di partecipazione, non solo delle ragazze, tra l'altro non solo delle donne, gli uomini sono molto incuriositi, spesso infastiditi, ma sono sempre di più gli uomini che vogliono partecipare attivamente a questo grande movimento, a questo grande cambiamento, non semplicemente facendo il tifo, ma provando a ridiscutere cosa significa essere uomini nel mondo. E questa è una cosa molto interessante, su cui io ovviamente non posso dare indicazioni pratiche, perché non sono un uomo, non ho il corpo di un uomo, quindi non posso fare questa cosa al posto degli uomini, ma essendo il, per così dire, il genere oppresso, posso dire, ok, guarda, le cose per noi stanno così, e già l'ascolto è una cosa pazzesca, perché a moltissimi uomini manca la prospettiva femminile, manca completamente, non, soprattutto la mia generazione di uomini non è abituata ad ascoltare le donne, dietro a salvaschermo quando facciamo la e poi cascano da zero, ah ma non lo sapevo che era così, ho capito, te l'avevo detto, perché non mi ascolti? E niente, la voce delle donne non conta niente, per cui non l'ascoltiamo mai. E quindi già l'ascolto è un progresso incredibile, perché significa io sto fermo per un attimo, non ti interrompo, ti lascio parlare e ascolto quello che mi dici. Dall'ascolto di solito scaturisce sempre la riflessione, poi a volte si fa bene, a volte si fa male, a volte funziona, a volte non funziona, a volte si fanno delle stupidaggini, però ci si prova, e provarci è tre quarti del lavoro, con buona pace di Yoda che diceva provare, fare o non fare, non c'è provare, che è un po' la mia massima di vita. Però in questo momento forse provare è l'unica cosa che possiamo fare tutti insieme, senza avere tanta paura di fare stupidaggini o di sbagliare, perché soprattutto le donne, sbagliare è parte integrante della vita, e noi siamo cresciute con l'idea che se sbagliamo dobbiamo tornare alla casella di partenza, invece no, non è così, dobbiamo avere anche, darci la possibilità di sbagliare, di aprire la bocca, di dire una stupidaggine, di dire scusate ho sbagliato e andare avanti, cioè accettare l'errore come parte del processo di crescita, è una delle cose più liberatorie e più belle che si possano fare. Ci lasci i riferimenti web per saperne di più sul libro? Allora, io ho una bella pagina dedicata sul mio sito, che è www.ludiablasi.it, e lì c'è tutto, quindi trovate tutti i link, c'è anche il link all'audiolibro, che tra l'altro in questi giorni è oggetto di una bellissima campagna nella metropolitana milanese, montata da Storytel, che è un servizio di streaming di audiolibri, e hanno l'audiolibro che io ho registrato con Emons, proprio del mio libro, un pasto terribile, per cui lo dico sempre, ho fatto più fatica a leggerlo che a scriverlo, quindi ascoltatelo, perché insomma è stata una grande fatica, una cosa che non avevo mai fatto prima e ne sono molto orgogliosa. Sì, trovate tutto lì, dopodiché i miei classici canali social in cui racconto dove sono, adesso appunto 10 luglio 20:45 nel cortile della biblioteca di Casasso della Delizia, torno a casa, anche se non si può mai tornare a casa, perché Casasso è il posto dove vive la mia famiglia da quando io ero adolescente. Manuale per ragazze rivoluzionarie, perché il femminismo ci rende felici. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Giulia Blasi. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Crepi, ciao a tutti. Con Lisa Gilardino ed Eva Necliaeva, direttrici della 49esima edizione del Sant'Arcangelo Festival dal 5 al 14 luglio 2019. Ben trovate. Grazie, grazie. Raccontiamo cos'è per chi non conoscesse questo storico festival.